Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Quella che vi raccontiamo oggi è una storia che ci proietta dritti nel secolo scorso, perché sembra proprio un secolo che sia passato, anche se a contare bene ti rendi conto che il cuore di questo racconto è solo di 28 anni fa. Oggi il protagonista di quella storia ha 46 anni, ma all'epoca dell'impresa che ricordiamo oggi ne aveva appena 19. Parliamo di Matthias Rust, un giovane tedesco con la passione per il volo, che ha conquistato l'interesse del mondo e un posto nella storia, con un lungo colpo d'ala, anche se le ali in questione non erano proprio le sue, ma quelle di un piccolo aereo da turismo, un monomotore Cessna 172, con il quale partì dalla Germania e atterrò un paio di settimane dopo a Mosca sulla Piazza Rossa, nel cuore dell'impero sovietico nel 1987. Non uno scherzo. Guardarlo col senno di poi, quel periodo, si potrebbe ricordare che di lì a poco sarebbe caduto il muro di Berlino, simbolo per 20 anni della contrapposizione tra il blocco occidentale e l'impero sovietico, il patto di Varsavia. Mancavano solo un paio d'anni alla conclusione della guerra fredda, ma il clima in quegli anni era tutt'altro che rilassato. La paura nucleare era viva, tangibile. I due potenti del tempo, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, cominciavano solo a parlarsi, a annusarsi, non erano ancora i volti sorridenti delle immagini simbolo degli storici accordi per la dismissione dell'arsenale nucleare delle due superpotenze. Anzi, agli occhi del nostro protagonista, l'allora 19enne Matthias Rust, le prospettive erano tutt'altro che rosee. Lo stesso Matthias, in una delle tante interviste rilasciate in questi quasi 30 anni, si ricorda del vertice tra Reagan e Gorbachev a Reykjavik in Islanda. Si era svolto l'11 ottobre del 1986, le posizioni erano vicine, erano i primi tentativi di alleggerire il carico nucleare sulla testa del pianeta, ma non c'erano accordi specifici. Una conclusione che forse non era proprio quella che il mondo sperava e che lo stesso Matthias sperava. Nessun disgelo formale, niente nero su bianco, nessun impegno, nessuna speranza. Avevo guidato per ore cercando questa casa dove Gorbachev e Reagan si erano incontrati. Ero molto amareggiato del fatto che non avessero approfittato il precedente autunno di quella chance storica. Mi chiedevo perché non avessero fatto il passo successivo. Avevo 19 anni, ero un idealista, credevo solo nelle cose buone. Non conoscevo il dietro le quinte della politica e cosa si nascondesse dietro queste decisioni. Sentivo solo che c'erano questi due uomini più o meno della stessa età. Ero convinto che volessero solo rendere più facile e migliore la vita degli altri facendo del loro meglio. E allora rimasi stupito quando vidi che non andavano avanti, che non provavano a capirsi l'un l'altro, che non aprivano il capitolo successivo per la pace. Beh, Matthias fa le cose semplici, la verità era molto più complicata di come la vedeva lui, perché quell'incontro era stato comunque importante perché Reagan e Gorbachev avevano già parlato di dismettere parte degli ordigni atomici. lo avevano fatto in un bagno, senza interpreti, quasi di nascosto dalle rispettive delegazioni. Lo ricorda così lo storico corrispondente da Mosca della RAI, Demetrio Volcic. A Reykjavik, vedi, loro si sono, un certo momento, vanno in un bagno, sulla vasca da bagno, aprono le carte geografiche e incominciano a discutere sulle cose, e tutto il resto delle delegazioni che stava fuori senza capire nulla, senza capire se questi litigavano, come parlavano, perché erano anche senza interprete, capisci? Andiamo a dormire, riparliamo il giorno dopo. Il giorno dopo si ritrovarono il mattino dopo e ridussero i missili pesanti del 50%, che era un grosso risultato per un vertice. E così si lasciarono. Beh, non male, insomma, questo vertice in un bagno. Però l'accordo vero arriva solo qualche mese dopo a Washington. E naturalmente non emersero subito i dettagli di quello storico incontro. Per cui a una mente semplice come quella di Matthias Rust, tutto questo sembrò un'occasione persa per compiere i passi avanti verso il disgelo e verso la pace. E proprio questa è la ragione principale della sua scelta. Un gesto simbolico per mettere sotto i riflettori le aspettative del mondo. Avevo 19 anni, la guerra fredda divideva il mondo. Con il mio piccolo Cessna decisi di vivere e far volare il mio sogno. Un volo dall'Occidente alla Piazza Rossa, come gesto di pace. Un volo come un ponte simbolico tra i due mondi. Matthias Rust decide di volare a Mosca, essere lui a fare da ponte tra il mondo occidentale e l'Unione Sovietica. Ha un brevetto di volo, ma non possiede neanche un aereo, non ha neanche maturato molte ore di esperienza. Pilotare è la sua passione, ma lui sta per iniziare un'impresa attraverso i cieli del Nord Europa. Matthias Rust sta per dare vita al suo folle disegno. È un volo già pazzesco oggi, ma ancora di più nell'87, in un mondo diviso in due nell'era della contrapposizione tra blocchi, il blocco occidentale e il blocco sovietico. E Matthias Rust vuole fare questo volo alla faccia di tutti i rischi e di tutti i ragionamenti, per rappresentare un ponte tra quei due mondi così distanti. Lui vuole varcare questo confine e questo pregiudizio. Una vera avventura moderna che comincia i primi giorni di maggio del 1987. Sign being of sound mind hereby to declare we henceforth pledge ourselves unto the power of the upper air. Abbiamo detto che Matthias non possiede un aereo, ha solo un regolare brevetto di volo. Quindi prende a noleggio un piccolo velivolo da turismo, un Cessna 172, uno di quelli con un solo motore a elica sul muso. Un aereo completamente bianco, a eccezione della banda scura che scorre su tutta la lunghezza della fusoliera. Sulla coda c'è disegnata una piccola bandiera tedesca, nera, rossa e gialla. I took over the aircraft Ho noleggiato l'aereo il 10 di maggio. Avevo pianificato di partire da Uetersen, un piccolo aeroporto vicino a Amburgo, il giorno 11, ma il tempo quella mattina era davvero brutto, c'erano nuvole basse, pioveva, non si poteva partire. Lo stesso il giorno successivo. Sono riuscito a partire solo il giorno 13, quando il tempo è migliorato notevolmente. C'è chi dice che il 13 porta male, io invece sono di quelli che pensano che il 13 porti bene e l'avventura di Mattias avvalora questa ipotesi. Lui parte, il primo tratto è tutto con il muso del Cessna puntato verso nord-est, dalla Germania alle isole Faroe, dove fa scalo. Poi riparte, stessa rotta, nord-est, atterra in Islanda all'aeroporto di Keflavik. Insomma, una rotta che lo porta lontano dall'obiettivo. Tra l'altro un volo difficilissimo, tutto sul mare, che per un pilota senza grande esperienza è quasi una scelta suicida. Il perché di questa stravagante rotta ce lo spiega lo stesso Mattias. Yes, it was a kind of thrilling. Sì, è stata una scelta da farsi tremare le gambe, ma l'ho fatto per una ragione. Ero sicuro che il volo verso Mosca avrebbe significato un sacco di pressione su di me, mentalmente e fisicamente. Quindi pensai che se fossi riuscito a raggiungere l'Islanda e tornare in Europa, sarei stato anche capace di volare a Mosca. Insomma, una bizzarra teoria, come uno che si allena col canestro per poi giocare a calcio. Però Mattias riesce a volare attraverso il mare con questo giocattolo più che con questo aereo, finalmente può ripartire, segue una rotta che lo deve riportare verso il blocco continentale europeo, quindi torna in volo, stavolta atterra a Bergen in Norvegia, e poi un altro piccolo pezzo di viaggio sempre più vicino all'obiettivo, stavolta atterra a Helsinki, dove la mattina del 28 maggio Mattias fa rifornimento, l'ultimo rifornimento prima dell'impresa finale. Alle autorità finlandesi dice di essere diretto verso la Svezia, gli credono, non possono immaginare cosa sta architettando questo folle giovanotto. Avevo scritto sul mio piano di volo che la destinazione era Stoccolma, e quando voli all'estero devi riempire un piano di volo. Non potevo certo dire che ero intenzionato ad andare a Mosca, perché mi avrebbero impedito di partire. D'altra parte non ero nemmeno sicuro che alla fine avrei cambiato rotta e mi sarei davvero diretto verso Mosca. Non fu proprio una decisione cosciente, accadde un po' così. All'improvviso cominciai a virare a sinistra e cambiai la mia rotta verso Mosca. Non lo ricordo però come una decisione attiva. È incredibile come un fatto come questo, destinato a far parlare tutto il mondo, sia accaduto un po' così, perché è proprio questo che Mattias fa: decolla e poi a un certo punto, dopo la rotta iniziale per la Svezia, fa questa famosa virata, cloche a sinistra verso est e va verso l'Unione Sovietica, direzione Mosca. Spegne la radio, è da solo nella sua avventura, direi nella sua follia, perché volare senza permesso nello spazio aereo sovietico è un'azione ad altissimo rischio, soprattutto in quel periodo caldo. Solo 4 anni prima la difesa aerea comunista aveva abbattuto un aereo di linea sudcoreano della Korean Airlines che aveva violato lo spazio aereo all'altezza della penisola della Kamchatka. Fu abbattuto con 269 morti. E quindi sembra incredibile, perché questo precedente è proprio una delle fortune di Mattias. Dopo quell'incidente la Unione Sovietica fu criticata fortemente dalla comunità internazionale, quindi decise, come dire, di ammorbidire le proprie reazioni in casi del genere, ed è una fortuna sulla quale Mattias costruirà la sua folle impresa. I finlandesi lo stanno cercando, hanno perso le sue tracce e pensano a un incidente, e intanto lui entra nello spazio aereo russo, passando per l'Estonia, che allora è ancora parte del grande impero sovietico. Viene inquadrato alle 14.29 del 28 maggio dai radar sovietici. Azot, Azot, IA 30, Azimut 320, дальность 16, поиск цели. First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor. Put me inside SSC. Let's this super string theory. Ay, ay, ay, ay. Accelerate the protons. A spirit us. I don't read the Bible. Bible. I don't trust the Bible. Bible. Even if they're made of marble or canal free play. I don't read the Bible. Cessna sul quale vola il 19enne Mattias Rust non risponde alla richiesta di identificazione del controllo di volo russo. Il segnale IFF, Identification Friend or Foe, che equivale a dichiararsi nemici. Tanto più che non risponde alle autorità che via radio gli comunicano di non procedere oltre. Quindi il velivolo di Rust viene classificato come nemico, con il numero di contatto 8255. Non solo, tre divisioni di batterie missilistiche lo inquadrano nei rispettivi bersagli, pronti al fuoco. La difesa aerea manda incontro al Cessna due caccia, i famigerati MiG. Forse l'incontro più brutto nella vita del povero Mattias Rust. There was nothing for the next 60 minutes. Only after that, non ci fu più nulla per i successivi 60 minuti. Poi un aereo militare sovietico mi affiancò. Mi volò davanti, poi sopra e poi mi sorpassò. Riuscivo a vedere i piloti dentro al jet, i loro caschi, le maschere dell'ossigeno, le tute arancioni. Vidi anche la stella rossa sull'ala. Ero spaventatissimo, ero sotto shock. Mi sentivo il cuore in gola. Mi chiedevo cosa sarebbe successo. Mi fermeranno? Mi spareranno? Avevo mille pensieri in testa. Era terribile. Fu un tale sollievo quando un paio di minuti dopo mi accorsi che erano scomparsi. Non riuscivo a crederci. Tutto qui, pensai, mi hanno solo sorpassato e se ne sono andati. Per fortuna non tornarono. Quello fu l'unico contatto che ebbi con la difesa aerea sovietica. Beh, però intanto l'incontro con i due MiG forse fa intuire a Mattias la dimensione del suo azzardo. Il suo volo prosegue. Noi torniamo a raccontarvelo tra poco. Rimanete in aria. Il falco e il gabbiano. Il falco e il gabbiano, stiamo volando, questa volta in senso letterale, perché siamo con il piccolo Cessna con il quale il 19enne Mattias Rust, nel bel mezzo della guerra fredda, sta volando per mezza Europa per raggiungere la Piazza Rossa a Mosca, a due passi dal Cremlino. È un gesto che ebbe un grandissimo effetto mediatico, ma anche politico, e che a Rust costò qualche guaio, naturalmente, come ci si poteva aspettare per un'impresa del genere. Ma torniamo a lui, che abbiamo lasciato nei cieli russi poco dopo essere stato intercettato da due MiG sovietici. Cosa salva Mattias che alle 14.48 del 28 maggio 1987 viene intercettato dai MiG sovietici nei cieli della città di Gdov? Lui non lo sa, ma i piloti hanno chiesto alla base il permesso di abbattere questo piccolo aereo, definito simile a uno Yak-12, un monomotore russo usato dopo la Seconda Guerra Mondiale. I piloti vogliono sparare. Il comando nega il permesso. E allora perché se ne vanno? Non si sa ancora oggi. Si racconta che Rust sia sceso di quota e quindi i piloti abbiano pensato che volesse atterrare. Poi, con il Cessna che vola così basso, se lo perdono. Prima botta di fortuna. I radar russi ogni tanto lo ritrovano, ma lui vola sotto i 600 metri ed è quasi impossibile tenerlo agganciato. Naturalmente lo sta facendo a caso di volare sotto i 600 metri, non c'è una strategia, però si cominciano a inanellare eventi fortunati. Sembra da ora in poi questa storia scritta da uno scrittore con molta fantasia. Per esempio, nella città di Pskov, l'aereo di Rust passa mentre è in corso una esercitazione all'uso delle attrezzature di identificazione. Quindi i controllori di volo assegnano a tutti i velivoli di passaggio lo status di amici. Non basta. lui vola su Torchok e viene di nuovo identificato come amico. Stavolta lo scambiano per uno degli elicotteri di soccorso intervenuti nella zona di un incidente aereo avvenuto il giorno prima. Diciamo un tedesco più simile a Gastone, il cugino di Paperino, che non a un vero e proprio eroe di quegli anni. Sono le 7 di sera del 28 maggio 1987 e Rust, che è passato per questa incredibile serie di coincidenze fortunate, entra nello spazio aereo di Mosca. Quando arrivai su Mosca, la prima cosa che vidi fu l'autostrada che entrava nella città. Notai i grandi palazzi, i grattacieli chiamati le sette sorelle di Stalin, con una stella rossa in cima. Fu così che capii di essere a Mosca. Guardai la mia mappa, controllai le distanze e il tempo di volo e mi dissi che doveva essere proprio Mosca. Vidi poi alcuni palazzi significativi, alcuni campi che avevo segnato sulla mappa per trovare facilmente la Piazza Rossa. Era difficile trovarla perché in una città di 12 milioni di abitanti era davvero piccola in proporzione. Approcciai il palazzo del Ministero degli Esteri, lo riconobbi perché aveva un campo vicino. Guardavo e mi chiedevo: dov'è il muro del Cremlino? E la cattedrale di San Basilio? Volai in cerchio per almeno mezz'ora, finché non notai un hotel a forma di cubo che era segnato sulla mia mappa. Un attimo dopo vidi la cattedrale di San Basilio e infine la Piazza Rossa, il Cremlino. Mi sentii felice e sollevato. Alla fine avevo raggiunto la mia destinazione finale. Mi sentivo leggermente ginocchia deboli, tremavano, ero stanchissimo dopo un volo di 5 ore in condizioni difficili. Allo stesso tempo però mi sentivo anche così leggero ed euforico perché un sogno incredibile era diventato realtà. L'hotel a forma di cubo è l'hotel Russia, dove io ho dormito più volte, e lo scenario è una Piazza Rossa che prima della grande svolta degli anni 90 era veramente qualcosa di surreale. Io venni bloccato perché stavo fumando nella Piazza Rossa. Quindi immaginate tutto questo scenario con un aereo che, un po' zigzagando, un po' andando senza una precisa idea, sta girando su Mosca con la gente con la testa in su che guarda l'evoluzione di questo Cessna. Prova la prima volta a atterrare, ma c'è troppa gente in giro, allora riprende quota, riprova e ce la fa. L'aereo atterra, rallenta e si ferma. Matthias Rust è sulla Piazza Rossa. La gente si avvicina lentamente all'aereo. Qualcuno pensa alle riprese di un film. Nessuno si agita, sono tutti molto tranquilli. Ci sono anche molti turisti. Alcuni di questi sono addirittura americani. Well, I came across the bridge here. Sono arrivata qui attraversando questo ponte. Quando sono arrivata vicino, ho potuto vedere che c'era un piccolo aereo. La gente si arrampicava per guardare dentro. Alcune persone parlavano con il pilota e gli facevano domande. Un turista americano, in mezzo alla folla, lo ha chiamato e gli ha chiesto da dove arrivasse. Lui ha risposto: da Helsinki. Where he had come from, and he said from Helsinki. Nessuno si mostra ostile con Matthias. La polizia addirittura arriva dopo un'ora dall'atterraggio. Gli agenti gli fanno le prime domande, controllano il velivolo, si accertano che il ragazzotto non abbia con sé armi, manca che gli chiedano patente e libretto. Però poi arrivano quelli del KGB, che Matthias nemmeno identifica come tali. E lì comincia a diventare più complessa la situazione, perché viene portato nel carcere di Lefortovo, il posto speciale del KGB, il posto che una volta era quello degli interrogatori duri, addirittura delle torture ai tempi della GPU di Beria. Nonostante Rust venga subito accusato di essere una spia occidentale, lo trattano relativamente bene. La sua faccia innocua forse lo salva ancora una volta. Rimane molte settimane in quel carcere finché il 2 settembre dell'87 viene processato a Mosca per le tante violazioni commesse nella sua avventura. Lo condannano a 4 anni di lavori forzati, quindi non uno scherzo. Però nel frattempo la sua vicenda viene sfruttata al meglio dall'uomo che di lì a poco cambierà la faccia dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev. Eh sì, perché Gorbachev approfitta delle mancanze dell'apparato di difesa russo per fare piazza pulita di alcune vecchie cariatidi che si oppongono al nuovo corso, alla nascente perestroica. Sentiamo ancora una volta Demetrio Volcic, testimone di quei fatti. Gorbachev se ne approfittò. Questi ufficiali aerei soprattutto dell'aeronautica, perché i marinai poi giravano il mondo, avevano esperienza di vedere, ma questi piloti erano più degli altri ideologizzati. Non nel stato militare c'era un commissario politico ed è lui che pompava la linea dell'eterno nemico che prima o dopo ci sarebbe attaccato, eccetera eccetera. E la battaglia di Shevardnadze, che era il principale in questo, era di dire: ragazzi, voi occupatevi della scienza militare e lasciate da parte Marx e Engels. Quindi Matthias Rust continua a usufruire di circostanze favorevoli, non finirà mai ai lavori forzati, perché il direttore del carcere lo prende in simpatia e lo lievita di finire nei durissimi campi di lavoro, tra l'altro dove avrebbe anche potuto incontrare qualche militare rimosso e incarcerato per la sua bravata, oppure qualche aviatore beffato dal suo incredibile volo fino a Mosca. Avrebbe potuto incontrare una delle vittime fatte da lui in quel incredibile ride. Lui rimane in carcere 432 giorni in tutto, viene rilasciato grazie a un'amnistia. Del resto si è capito che non è una feroce spia occidentale. Torna in Germania Ovest, siamo nell'agosto del 1988, il 3 agosto. Forse pensa di vedersi tributati onori e fanfare, ma non è per niente così, perché lo accolgono non da eroe, ma per quello che è: un pazzo irresponsabile che ha messo a rischio con il suo ponte immaginario la pace mondiale. C'è di più. Ad aspettarlo trova una multa da $100,000 per l'inutile missione di soccorso messa in piedi dopo la scomparsa del suo aereo dai radar finlandesi. Naturalmente gli ritirano il brevetto di pilotaggio e viene messo sotto inchiesta per minaccia alla pace e tradimento. Finirà tutto in nulla. Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Beh, che sia stata l'azione di un pazzo irresponsabile o l'importante gesto simbolico di un idealista, Matthias Rust ha lasciato impresso un segno nella storia. Ha colpito milioni di persone col suo incredibile volo. Una delle persone che da quell'azione temeraria è stato colpito è sicuramente Ron, il notissimo cantautore che al 38esimo Festival di Sanremo nel 1988 ha portato una canzone che si chiamava Il mondo avrà una grande anima. Al quale volevo chiedere, ciao Rosalino, ciao, chiederti che tipo di suggestione ti ha suggerito questo folle viaggio di questo ragazzo per scrivere, cioè, quanto c'è di Matthias Rust nella canzone Il mondo avrà una grande anima? Beh, c'è completamente, io l'ho identificato in un meraviglioso pazzo giovane che abbiamo anche nel nostro paese, ecco, che ai quali forse dobbiamo a volte dare un pochino più di fiducia. Ecco, questo oltre a essere pazzo, secondo me dentro alla sua anima, alla sua testa, aveva anche, chissà, forse no, magari l'ha fatto per follia, ma a me è piaciuto credere che lui avesse la speranza che qualcosa potesse avvenire. Cioè il fatto che lui fosse atterrato sulla Piazza Rossa, che i russi e le signore andassero a tutti ad abbracciarlo come se fosse questo uccello alato che arrivava dal cielo, eccetera, che portasse, che ne so, la pace, portasse, pensavo, erano anni brutti, no? E questa cosa, ecco, io ci ho visto dentro una speranza di abbattere dei muri, ecco, poi sono stati anche abbattuti. Beh sì, sei stato buon profeta, perché tu l'hai cantata nell'88, quindi sì, a una manciata di anni dalla, sì, anche, da quella svolta. Anche ad un Sanremo, se per sì, questo. Certo, sì, 38esimo sì, festival. Sono rimasto sempre così affascinato, ecco, da questa persona che poi ne ha passate, perché mica l'ha lasciato andare così. Si sono girate i russi, capito? Beh sì, in effetti sì. forse è riuscito a eludere tutti i sistemi di sicurezza, insomma. Beh, e poi comunque, oltre a avere lanciato un segnale, insomma, ci ha dato la possibilità di sentire una bellissima canzone. E quindi, come minimo, il programma di minimo è stato raggiunto, perché la canzone è meravigliosa. Io ti abbraccio, grazie, grazie Ron. Ti abbraccio grazie. Anch'io, ciao a tutti, ciao. Il mondo ora una grande anima. La vicenda di Matthias Rust, che oggi ha 46 anni, è tutta legata al suo atterraggio a Mosca. Il dopo non è all'altezza, ammesso che lo fosse stato il prima. Finiti i guai giudiziari, svolge il servizio civile obbligatorio in un ospedale tedesco. E diventa protagonista di un'altra vicenda che ha a che fare più con la cronaca nera, perché fa delle avance a una collega, lei non gradisce, lui la accoltella, ferendola in modo molto grave, viene processato. Condannato a 4 anni per tentato omicidio, sconta 1 anno e mezzo, quindi anche in Germania danno le pene e poi abbuonano tutto. Comunque, la sua immagine ormai è rovinata. Rimane legato alla Russia, addirittura ci si trasferisce, fa il commesso viaggiatore nel settore calzaturiero. Per 2 anni viaggia un po', forse non ha perso il vizio, rivedrà la Piazza Rossa di Mosca nell'aprile del 94, la guerra fredda ormai finita. Negli anni 2000 la sua vita segna pochi avvenimenti, nessuno di rilievo, un arresto per il furto di un maglione di cashmere, il lancio di un sito internet che non ha nessun successo. Nel 2004 si sposa con una donna conosciuta a Trinidad, nel 2009 si dà al poker e oggi si definisce analista finanziario. Il suo aereo a noleggio è conservato in un museo berlinese, non vola più, ma se volete provare l'ebbrezza di quel volo potete farlo. Il volo di Rust è infatti diventato una missione di un famoso simulatore di volo per computer. Resta solo una domanda, quella domanda che sicuramente hanno fatto in tanti a Matthias Rust: lo rifaresti? Di recente ha risposto di no, ma noi preferiamo quest'altra sua risposta di qualche anno fa. Beh, in alcuni giorni dico a me stesso che non avrei dovuto farlo. Avrei avuto una vita più facile, più normale, come chiunque altro. Dall'altra parte, senza questa esperienza, se non avessi vissuto il mio destino in quel modo appieno, non sarei diventato quello che sono oggi. Quello che sono oggi, che non abbiamo capito esattamente cosa sia, però un pazzo, un sognatore, una persona fuori dai canoni, questa era la storia di Matthias Rust, il ragazzo che a 19 anni sfidò le difese dell'impero sovietico e attraverso una serie incredibile di circostanze fortuite atterrò sulla Piazza Rossa di Mosca. Un avventuriero, un idealista, un avventato. Alla fine un uomo molto molto fortunato. Questa è una delle storie che vogliamo raccontare, storie di chi è riuscito, di chi ha tentato, di chi ha avuto cadute, risalite e di chi ha saputo volare anche contro la logica, perché ciascuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, ma può dare il colpo d'ala che lo porta ad andare in alto come il falco e come il gabbiano. Mandateci i vostri commenti, scriveteci su ilfalcoilgabbiano@radio24.it segnalandoci anche delle storie che potrebbero interessarci. Insomma, cercateci, cercatemi che mi trovate. Ciao, a lunedì. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.